Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buonasera. A casa di mia madre, e presumo di tanti altri pensionati, è arrivata la lettera IMS con l'invito, minaccioso fra le righe, a denunciare i redditi aggiuntivi, il modello RED, per eventuale adeguamento dell'importo pensionistico. Presumo che gli interessati siano milioni e credo pochi abbiano le idee chiare, anche al nostro CAF, ad esempio, sul chi e cosa si debba denunciare. Seguo abbastanza Radio 24, ma non ho captato notizie e suggerimenti nel merito. Sarei quindi lieto e grato se si pensasse ad un approfondimento dell'argomento che, tra l'altro, aveva una scadenza brevissimo, fine di luglio, ma che sembra possa essere posticipata a fine ottobre. Cordialmente, Claudio. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Prendendo a spunto la mail di questo ascoltatore, abbiamo deciso di organizzare una trasmissione su questa richiesta dell'INPS che nelle ultime settimane è arrivata a casa di molti pensionati. In effetti, io l'ho vista, perché è arrivata anche la mia mamma, il tono perentorio c'è e soprattutto non si capisce proprio bene perché debba essere inviata questa comunicazione che in teoria l'INPS, se incrociasse i dati con l'amministrazione fiscale, potrebbe appunto già conoscere. Ma quali sono esattamente le informazioni che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede appunto ai pensionati e cosa devono fare i pensionati il cui unico reddito, per esempio, è proprio solo la pensione? Raccontateci se vi è arrivata questa richiesta, come la state gestendo, avete risposto all'INPS attraverso il canale online, tra l'altro vi siete ricordati di fare il cosiddetto PIN dispositivo, oppure siete andati ad un CAF, un centro di assistenza fiscale, CAF che sono affollatissimi in questi giorni perché i pensionati appunto hanno ricevuto questa lettera ma non sono stati raggiunti dalla comunicazione appunto che questa informazione può essere anche appunto trasmessa con qualche settimana di ritardo perché la scadenza è stata, come vi dicevo, posticipata a fine ottobre. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Se volete intervenire in diretta sul tema di questa mattina, oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook, su Twitter. Con noi stamattina commenteremo questa situazione con Antonio Pellegrino della SPI CGIL Nazionale, del Sindacato dei Pensionati Italiani, appunto aderente alla CGIL. Pellegrino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. E poi monitoreremo anche cosa succede tra i CAF. Dino Giornetti, CAF CISL, buongiorno, lui è responsabile appunto per il settore dell'ISEE, ma in questi giorni sta invece appunto prendendosi proprio cura invece specificatamente dei pensionati per gestire questa problematica. Giornetti, buongiorno. Ci sente? Non lo abbiamo ancora, lo stiamo raggiungendo telefonicamente fra qualche istante, non mi ero accorta appunto che il nostro Marco Lombardo, efficientissimo, non mi aveva ancora preparato il collegamento telefonico con Giornetti, è invece pronto il collegamento telefonico con Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, il centro di assistenza fiscale appunto delle ACLI per lavoratori dipendenti e pensionati. Conti, bentornato anche a lei. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, chiaramente il tema che affronteremo oggi e che approfondiremo oggi, ve l'ho spiegato, adesso andiamo a dare un'occhiata invece a quello che sta succedendo sui mercati finanziari. La giornata di borsa oggi è molto intensa in termini positivi, per fortuna il mercato europeo che è sembrato rasserenarsi notevolmente, questa maggior serenità è partita ieri dopo le rassicurazioni che sono arrivate appunto dal Portogallo che probabilmente non andrà ad elezioni anticipate e di conseguenza è una crisi politica europea scongiurata che fa bene al mercato azionario. Di questa situazione ne beneficiano soprattutto il listino italiano e quello spagnolo. Milano guadagna l'1,17%, ancora meglio vanno le cose a Madrid, un po' più prudenti le altre piazze europee che guadagnano lo 0,2% su Parigi, lo 0,15% su Francoforte, Londra più 0,35%, stamattina è stata molto brillante anche la seduta sui mercati asiatici, Shanghai ha chiuso con un rialzo di quasi 2 punti, l'Hang Seng di Hong Kong più 2,33%, Tokyo più 0,8% e ieri Wall Street, grazie alle trimestrali che stanno arrivando, che sono in larga parte apprezzate, non tanto quelle della tecnologia, ieri per esempio è andata molto male Microsoft, ieri Wall Street, dicevamo, ha terminato in rialzo, riuscendo a strappare un nuovo record per l'indice Standard & Poor's. Oggi dagli Stati Uniti arrivano La trimestrale di Apple, di AT&T. Dopo la chiusura dei mercati arrivano alcune statistiche sull'andamento dei prezzi delle case per il mese di maggio. A Milano andiamo a vedere un po' i migliori e i peggiori titoli. Telecom è più 4,89%, Atlantia, la ex Autostrade, più 3, Fiat più 2,61%, la Popolare dell'Emilia Romagna più 2,60%, Enel più 2,58%, Intesa San Paolo più 2,55%. Molto male STM, perde quasi 7 punti percentuali dopo i conti trimestrali presentati questa mattina prima dell'apertura della seduta a Piazza Affari. Per il colosso dei semiconduttori, perdite più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lasciamo la borsa, allora andiamo al tema di oggi. Come vi anticipavo, appunto, parliamo di questa situazione nella quale si stanno trovando molti pensionati in questo periodo che hanno ricevuto questa comunicazione appunto da parte dell'INPS. Antonio Pellegrino, il sindacato dei pensionati italiani della CGIL appunto nazionale. E allora, in realtà la situazione sembra essere un po' più tranquilla rispetto a come si era posta all'inizio di luglio, perché a quanto pare i pensionati avrebbero dovuto presentare questa dichiarazione dei redditi aggiuntivi alla pensione appunto entro la fine di luglio. Tutto è stato prorogato, ma in realtà, ecco, questa seconda comunicazione purtroppo non ha raggiunto i pensionati. Ci può raccontare qual è la situazione? Dunque, la situazione è questa. Diciamo, normalmente questo invio, questa richiesta di documentazione, l'INPS negli anni scorsi l'ha inviata all'inizio dell'anno. Questo è il primo anno in cui arriviamo addirittura a luglio, non era mai accaduto. Una spiegazione del perché si è arrivati a luglio ancora realmente non ce l'abbiamo. Le persone hanno ricevuto, sono circa 6 milioni diciamo, le richieste inviate. Infatti, non sono due, ecco, ha fatto bene a ricordarlo. 6 milioni quindi di documenti che stanno circolando e preoccupando. Sì, poi non sono solamente i RED, sono anche altri documenti, ma insomma le persone coinvolte sono circa 6 milioni. Di che cosa si tratta? Si tratta di persone che ricevono una prestazione previdenziale con aggiunta una prestazione assistenziale, o di persone che ricevono una prestazione solamente assistenziale, non so, l'invalido civile, l'indennità di accompagnamento, l'integrazione al minimo, l'assegno al nucleo familiare, cioè sono tutte prestazioni per le quali l'INPS per legge deve verificare che ci siano dei redditi compatibili che non raggiungano o non superino certi importi. Quindi è una procedura che viene ripetuta ogni anno, quindi la gente, diciamo, è abituata a ricevere questo invito a comunicare. La novità è che è arrivata a luglio. Ora, la prima cosa che dovrebbe fare un ente, diciamo così, minimamente serio, è quello di rivolgersi ai pensionati attraverso i mezzi di comunicazione e dire: guardate, da luglio siamo andati a ottobre, non vi preoccupate perché c'è tempo. Questo aiuterebbe i pensionati e aiuterebbe noi, diciamo così, a svolgere un'attività di sostegno per quanto riguarda il sindacato e i CAF, che sono investiti in prima persona del lavoro, a svolgere questa attività con più serenità, perché poi si tratta di un lavoro delicato. La gente rischia di vedersi sospesa la prestazione, no, infatti, la anche gente ha paura. Eccetera, bisogna comunicare questa... anche i dati esatti, certo, naturalmente, perché sennò va a rischio la stessa prestazione, come giustamente diceva. Per cui, ecco, in quali condizioni si sono trovati anche i vostri sportelli assistenziali? Noi, gli sportelli dello SPI, diciamo, sono come tutti, come i patronati, come i CAF, perché poi, insomma, si tratta di servizi che sono concentrati nello stesso sede, nella stessa sede in gran parte, no? Quindi una persona va alla CGIL e trova il sindacato dei pensionati, il CAF, il patronato. Il primo che trova è il sindacato dei pensionati, ma poi da lì passa al CAF, passa. Quindi noi siamo aggrediti dalle persone, ma questo è dovuto proprio al fatto che il 31 di luglio continua ad essere una data spostata in avanti, ma che di questa roba la gente non ne sa nulla. Ecco, siamo qua noi che dobbiamo informare, con qualche difficoltà anche, perché non è che tutti ci credono, magari pensano che li vogliamo rimandare indietro. Esatto, certo, perché la comunicazione con la scadenza prima è arrivata ed era molto perentoria, come dicevamo, seconda, certo. La seconda con la proroga, siccome non è arrivata, questa chiaramente, giustamente, la gente vede la cosa e dice: vabbè, ma esatto, ve ne volete andare al mare, no? E questa è una delle per cose, non saperne leggere né scrivere, uno rispetta la prima scadenza. Allora, tra l'altro, proprio poco fa abbiamo avuto la disponibilità per il rotto della cuffia dell'INPS e tra un attimo ci collegheremo anche con il funzionario che l'istituto ci ha messo a disposizione, il dottor Salvatore Ponticelli, appunto, che sentiremo fra qualche istante. Andrei però anche ai CAF, ai centri di assistenza fiscale, per verificare appunto quale tipo di informazione è necessario dare in questo momento al pensionato, e soprattutto appunto rifaremo anche un punto della situazione, un chiarimento per capire in che cosa consiste questo modello. Un po' Pellegrino ce l'ha detto, ma appunto lo rispieghiamo di nuovo per chi magari avesse preso anche un po' sotto gamba questa comunicazione che è arrivata nella propria casa nelle ultime settimane. Dino Giornetti, CAF CISL, ancora buongiorno. Allora, lei stesso, come mi raccontava prima al telefono, prima dell'inizio della trasmissione, è alle prese con tale questione presso gli sportelli appunto che la CISL gestisce sul territorio per quello che riguarda appunto i centri di assistenza fiscale. È così complicato inviare questa comunicazione all'INPS? Il modello, come diceva correttamente il collega, Avena ha creato delle difficoltà iniziali con questa scadenza immediata, imminente, quindi i cittadini sono visti arrivare il modello a fine giugno, primi giorni di luglio, con questa scadenza del 31 luglio. Chiaramente c'è stata questa proroga che ha dato ampio margine e disponibilità, quindi fino al 31 ottobre, per poter acquisire questi modelli, quindi in questa fase i cittadini vengono informati di questa proroga e vengono tranquillizzati. Come diceva correttamente il collega, è un modello a verifica annuale, quindi questi cittadini hanno tendenzialmente sempre ricevuto questa verifica dei redditi che è necessaria per i trattamenti prima elencati. Inoltre, oltre al modello RED, è stato inviato un modello ai percettori di invalidità civile. Sono circa 2 milioni di persone che hanno ricevuto questo modello, che sono titolari di una prestazione di accompagno, di frequenza, i famosi modelli che tecnicamente vengono chiamati sulla lettera invalidi civili, dichiarazione di responsabilità, e sono l'ICRIC, l'ICLAV e l'ACAS, che sono collegate all'invalidità. Ecco, allora no, ma mi vuole ribadire un attimo, perché magari vale la pena puntualizzarlo, così poi questi temi li trasferisco anche al dirigente IMSS che ci ha raggiunto e che saluterò fra qualche istante. Se è un modello annuale, se questa richiesta arriva tutti gli anni ai pensionati, qual è la motivazione per cui quest'anno tutti sono saltati un po' sulla sedia? Le motivazioni sono quelle che indicava Pellegrino? Perché non arriva a luglio di solito questa richiesta? Quando arriva? No, questo modello normalmente arriva intorno 3-4 mesi precedenti, quindi febbraio, marzo, queste erano le verifiche annuali precedenti. Da quest'anno c'è da considerare anche un'importante novità relativamente CUD. Non essendo stati inviati i cartacei direttamente al cittadino, hanno un po' posticipato alcune scadenze. Vogliamo già girare il coltello in un'altra piaga, Giornetti, no, subito. Ma la situazione è stata normalizzata, sì, nonostante la grossa affluenza. Noi ci siamo occupati, un po' tutti gli enti interessati, per riuscire a semplificare l'accesso a questi dati a tutti i cittadini, e l'operazione ci è sembrata andare abbastanza positivamente. Eh sì, pian piano abbiamo tranquillizzato tutti. Sì, abbiamo un attimo normalizzato. Chiaramente all'inizio ricevere per anni la stessa comunicazione può portare dei disagi, e via via si semplificano con l'informazione, con la corretta informazione. Chiaramente l'afflusso è stato notevolissimo, avendo ricevuto una lettera con una scadenza così imminente, infatti, un po' per tutte le attività. E allora ne chiediamo spiegazioni all'INPS. Buongiorno e grazie per il suo intervento al dottor Salvatore Ponticelli, direttore centrale vicario delle pensioni. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci a sente? Tutti. Eccoci qua. Allora, ci spieghi un po' qual è stata la dinamica di quest'anno sull'invio di questo modello RED, appunto. Per quale motivo avete scelto di farlo così in piena estate, impaurendo anche un po' i nostri pensionati all'ascolto, che tra l'altro sono anche lamentati per il tono che si usa in questa lettera? Io peraltro l'ho vista quest'anno per la prima volta, perché è arrivata anche la mia mamma, dottor Ponticelli, quindi non avevo avuto modo di vederla negli anni passati. Ma siete stati un po' più rigidi nella comunicazione? Attenzione, con compila tutto e manda tutto entro il 31 luglio, altrimenti rischi di vederti anche rivisitare e correggere appunto l'assegno pensionistico. Beh, intanto l'operazione di verifica dei redditi è un'operazione, come già stato detto dagli ospiti che mi hanno preceduto, che si può considerare routinaria, viene fatta ogni anno e viene svolta da anni. Anzi, l'Istituto negli ultimi anni ha proceduto anche a delle notevoli operazioni di semplificazione, anche in questo agevolato dalle nuove normative che sono state introdotte, soprattutto a partire dal 2010, da quando cioè l'Istituto ha la disponibilità dei dati dell'amministrazione finanziaria, per cui è in grado di consentire a molti pensionati di non dover adempiere anche alla dichiarazione reddituale attraverso il modello RED. Ulteriore semplificazione è stata introdotta quest'anno perché da un lato, come ha detto giustamente Giornetti, è stato possibile, cioè è stata applicata la norma che ha previsto che il CUD venisse rilasciato in modalità telematica. Eh sì. Però l'attenzione si è concentrata su questo aspetto, però l'INPS anche, anche a seguito dell'unificazione che c'è stata con INPDAP e con EMPALS, ha anche realizzato il cosiddetto CUD unificato, cioè in sostanza in un unico modello di certificazione dei redditi ha certificato un unico imponibile nel caso in cui i pensionati siano titolari non solo di una pensione INPS ma anche di una pensione INPDAP e di una pensione EMPALS, in questo modo rendendo più semplice gli adempimenti fiscali e anche la dichiarazione reddituale fatta ai fini previdenziali. E in questo modo chiaramente sono un po' slittati i tempi per l'avvio dell'operazione RED, che però non è che sia partita con ritardi enormi rispetto agli anni scorsi, perché in sostanza negli anni scorsi più o meno la campagna reddituale veniva avviata a maggio, adesso praticamente è stata avviata a fine giugno. Insomma, però nei contenuti la campagna è simile a quella degli anni scorsi. Ah, ecco. E in che cosa si differenzia così tanto per chiarirlo? No, quest'anno rispetto all'anno scorso non si differenzia in niente, anzi la lettera che è stata inviata contiene pure qualche informazione in più rispetto alle lettere che inviavamo gli anni scorsi. Il discorso di quella che è sembrata una minaccia, no? Insomma, cioè l'indicazione della possibilità che le prestazioni vengano sospese nel caso in cui non si risponda all'invito a dichiarare i propri redditi, è un'indicazione che era contenuta anche nelle lettere degli anni scorsi ed è un'indicazione che viene data di una precisa norma che esiste e che impone all'istituto nel caso in cui appunto malgrado l'invito a dichiarare i redditi e poi i ripetuti solleciti che normalmente l'istituto rivolge a coloro i quali non adempiono a questo obbligo, chiaramente una norma che impone all'istituto alla fine di procedere alla sospensione delle prestazioni. Quindi ci è sembrato corretto informare i pensionati delle possibili conseguenze di un certo. Guardi, adesso l'unica cosa da fare, dottor Ponticelli, è fare invece una campagna di informazione per tranquillizzare un po' tutti che non hanno l'emergenza, diciamo, di compilare questa documentazione e trasferirla a voi. Possono farlo entro la fine di ottobre, quindi magari varrebbe la pena affiggere nei vostri uffici disseminati sul territorio, ma anche avvalendovi appunto della collaborazione dei CAF, affiggere appunto su tutti gli uffici una comunicazione di questo tipo, così tranquillizziamo un po' chi magari non ha il tempo di farlo, ecco. Se posso dire una parola su questo, vorrei anche sottolineare, in studio avete dei rappresentanti organizzazioni che rappresentano poi anche gli interessi dei pensionati, tutti loro potranno confermare che tutte le fasi di avvio della campagna RED e anche la proroga che è stata decisa al 31 ottobre sono sempre state accompagnate da riunioni e consultazioni sia dei sindacati dei pensionati, sia dei CAF, sia dei patronati, proprio affinché l'informazione circolasse nel modo più completo possibile. E anche la proroga al 31 ottobre è stata pubblicizzata attraverso un comunicato stampa del nostro ufficio comunicazione, è stata resa nota logicamente alle nostre sedi che stanno anche contribuendo a diffondere la notizia sul territorio. Comunque insomma sa com'è, i pensionati vogliono essere così raggiunti a casa perché si ritengono più difficile, però è difficile. Proprio per questo facciamo sforzi per cercare di arrivare in tutti i modi possibili a loro con un'informazione che li tranquillizzi rispetto ad un adempimento che non ha niente di diverso rispetto a ciò che è avvenuto l'anno scorso. Certo. Se non fosse questo differimento dei tempi. Allora, ammettendo che però ci sia all'ascolto qualcuno che per la prima volta l'ha ricevuto quest'anno, adesso dobbiamo dire anche in che cosa consiste questo modello, entreremo più nel dettaglio di questa documentazione, appunto qual è il numero, la mole appunto di informazioni di cui l'INPS ha bisogno, come si può fare, se è necessario solo ed esclusivamente rivolgersi appunto ad uno sportello di assistenza fiscale fiscale o a un sindacato, a un patronato per poter fare questa compilazione. Se si può fare online, appunto, cercheremo di capire tutto questo. Paolo Conti, non mi sono dimenticata di lei, adesso le faremo chiaramente dire anche la sua su tutto questo argomento. E poi ci sono anche degli ascoltatori pronti ad intervenire, perché da quello che abbiamo capito c'è anche qualcuno che può essere, anche se ha ricevuto appunto la lettera a casa, questa richiesta di trasferimento di informazioni all'INPS, appunto se è arrivata a casa, qualcuno in realtà può anche non dare queste informazioni all'INPS. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, ribadiamolo ancora una volta, perché ci sembra l'informazione più importante da dare questa mattina per assicurare un po' i pensionati agitati. Slitta al 31 ottobre la scadenza appunto per i pensionati italiani per la consegna della dichiarazione dei redditi all'INPS, il cosiddetto modello RED. Appunto, questa richiesta di informazione vi è arrivata in questi giorni a casa. È una buona notizia, visto che appunto l'ente di previdenza non era riuscito a fare una campagna di informazione molto molto capillare, per cui appunto tutti i pensionati erano rimasti alla vecchia scadenza, e cioè ricordavano appunto che avrebbero dovuto fare questo trasferimento di informazioni entro la fine di luglio. Invece hanno un po' più tempo, ma in ogni caso ci sono anche quelli assolutamente, come dire, precisi, che tra l'altro addirittura non si fidano anche della proroga, e quindi vogliono compilare appunto questa modulistica entro la fine di questo mese, magari per andare in vacanza tranquilli. Allora questa mattina stiamo cercando di capire un po' cosa è bene fare e soprattutto in cosa consiste questo modello qualora un pensionato fosse stato raggiunto quest'anno per la prima volta. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Adesso sentiremo degli ascoltatori. Stamattina abbiamo rappresentanti dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, ma anche il dottor Salvatore Ponticelli, appunto direttore centrale vicario delle pensioni dell'INPS. Sentirei qualche domanda e poi andiamo appunto con i nostri interlocutori. Luca da Terni, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno a tutti. Io rappresento mia madre, che lei è pensionata, io no. Questa lettera già gli è arrivata lo scorso anno, mm-hmm. È molto chiara, nel senso che dice: se fa l'unico 7.30 non deve fare questa denuncia all'INPS. Mm-hmm. Però il problema è nato quando, per chiarimenti, sono andato al CAF, a un CAF di una nota sigla sindacale. Questo mi ha spaventato dicendomi: guarda, la devi fare perché sennò mi sospendono la pensione. Ho fatto: ma guardi che mia madre fa l'unico. Mi pare che sia scritto anche nel modello, tra l'altro, no? Sì, fa l'unico. Infatti. Va bene. E dopo sono andato anche all'INPS, e l'impiegato dell'INPS gentilmente mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, non è basta necessario. Quello. C'è molta confusione in merito, sì, ogni persona interpreta, penso, la legge. Certo, devo dire che anche gli impiegati e i funzionari dei centri di assistenza fiscale, poveretti, hanno a che fare con una novità al giorno, e quindi anche loro qualche volta entrano in confusione. Questo l'anno scorso, ma quindi quest'anno le è stato detto? Quest'anno è già arrivata, nei termini già che ne avete parlato. Mm. E non farà niente, perché sua mamma ci fa la già dichiarazione. Già l'unico, a dire che l'INPS, in base al reddito che c'ha mia madre, perché c'ha una reversibilità di mio padre che è morto, mm-hmm. Aumenta e diminuisce il reddito a seconda di come... Evidentemente altre fonti di reddito. Sì, esatto. La ringrazio, Luca. Volevo sentire Paolo Conti, così almeno iniziamo anche a coinvolgerlo nella nostra chiacchierata di questa mattina, per capire intanto appunto se vuole commentare un po' il caso che è successo al nostro ascoltatore, che mi pare abbastanza informato appunto su come deve comportarsi, però chiaramente anche ai CAF qualche volta vanno in confusione anche loro, giustamente. Conti? Sì, tutto può essere, però penso che ci sia una confusione generalizzata quest'anno. Mi riferisco anche a alcune affermazioni del dottor Ponticelli, cioè il problema è che dal 2010, con un grande sforzo organizzativo, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate si interscambiano i dati dei dichiarativi, per cui fondamentalmente questa richiesta in realtà è assolutamente inutile nel momento stesso in cui c'è il dichiarativo. Allora, fin tanto che la dichiarazione dei redditi, per esempio il modello 730 fatto da 17 milioni di persone, scade l'8 di luglio, il modello RED arriva nelle case dei primi pensionati attorno al 4 al 5 di luglio, capite bene che il pensionato che ha già fatto la dichiarazione dei redditi immediatamente si catapulta al CAF, perché gli è arrivata un'altra richiesta e il CAF deve verificare se poi questa deve essere inoltrata o meno, per cui il mancato rispetto dei tempi quest'anno ha creato una doppia o tripla passaggio dei pensionati sui CAF. Allora, mentre fino all'anno scorso questa richiesta era solitamente all'interno della busta contenuta col modello CUD, quest'anno il CUD non è stato più spedito, sì. Non è stato spedito il RED. Quando ci si è accorti che non era stato spedito il RED, si è provveduto a fare l'operazione. Ah, ecco, quindi già questa no, no, questo è un chiarimento importante, quindi conti, prima la richiesta di, del modello RED appunto arrivava contestualmente al CUD a casa, arrivavano certo, insieme. Il modello CUD serviva per fare la dichiarazione dei redditi, a quel punto quando la persona si recava al CAF automaticamente poi si verificava se c'era anche questa richiesta, perché poi bisogna stare attenti a una cosa: non è vero che se uno fa la dichiarazione dei redditi non deve trasmettere questo dato all'INPS, perché è vero solo per certe tipologie previdenziali, cioè se una persona riceve, come nel caso di Luca, una pensione di reversibilità di un defunto. Una pensione di reversibilità non deve fare nulla, perché in realtà la pensione di reversibilità viene erogata in funzione dei contributi che sono stati pagati dalla persona deceduta. Però se la signora, se il pensionato riceve trattamenti di famiglia, integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, ha pensioni estere e così via, allora in questo caso il modello RED va trasmesso indipendentemente dal fatto che abbia fatto o meno la dichiarazione, perché vanno inseriti dei redditi che sono esenti, che non compaiono in dichiarazione dei redditi, per esempio gli interessi attivi dei conti correnti, dei BOT, dei CCT. Addirittura se uno ha la pensione estera e non ha interessi deve comunque mandare indietro il RED, perché deve indicare la tipologia dello Stato da cui proviene. Cioè non è una cosa così automatica e comporta anche tutta una serie di tempi per verificare dalla stringa del soggetto, cioè la stringa è un codice a barre dove praticamente l'INPS identifica la tipologia previdenziale, se poi questa debba indicare anche redditi esenti o meno. Ecco, consideriamo questo, per cui l'aver saltato 3 mesi, tenete conto che le lettere dell'INPS sono datate maggio, ma sì, arrivano la prima settimana di luglio, sì, è vero. Per cui la gente poi, che magari sapeva che non doveva ritornare, però considerate che stiamo lavorando con le fasce più deboli della popolazione, sono 6 milioni di pensionati che nella migliore delle ipotesi sono vedovi. Nella peggiore delle ipotesi hanno trattamenti di famiglia, integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, figli portatori di handicap, cioè sono la fascia più debole in assoluto della popolazione INPS. Fare girare questa gente, cioè farli muovere, crea grandi problemi, grandissimi problemi. Con l'operazione CUD almeno il supporto tecnico dato ai CAF è stato di un certo tipo, per cui i CAF potevano interagire direttamente con la banca dati INPS e in tempo reale richiedere il CUD in formato cartaceo. Esatto. Invece, per quanto riguarda queste benedette stringhe, che sono appunto questi codici a barre dove ci sono i dati della pensione, se non sono presenti nella busta, e vi assicuro che ci sono tante buste che non la riportano, per esempio tutte le buste che l'INPS ha inviato relativamente a quei RED non trasmessi nell'anno precedente, che li chiama solleciti, sono tutte prive di questa stringa. Di conseguenza il pensionato deve o loggarsi su internet, lasciamo perdere il canale PIN internet, penso che sia sia stato utilizzato, non so da quale percentuale pensionati. Vabbè, io l'ho fatto per mia mamma, ma io mi sono messa lì, mi sono impegnata un paio di giorni. però mi ci sono voluti tutti, per tutta una serie di problemi. Esatto. Però per dire, la stessa piattaforma che consentiva di prelevare i modelli CUD non consente di prelevare le stringhe, perché le stringhe sono su tutta un'altra area del sito dell'INPS, area su cui si può accedere solo attraverso la chiave Entratel, dunque con tutta una serie di autenticazioni fisiche che non sono a disposizione di tutti gli operatori dei CAF. Per cui capisci bene che questi sono tutti rallentamenti fatti su soggetti che io li capisco benissimo che siano ipertesi e ipersensibili. Il signore della CISL e della CGL ha detto una cosa fondamentale, cioè la gente poi non crede, lui vede 31 luglio una lettera perentoria che dice devi mandarsi indietro altrimenti ci sospende il trattamenti che rappresentano l'unica fonte di reddito per la stragrande maggioranza di questi soggetti, cioè questi soggetti non vanno trattati in questo modo. Infatti guardi, le ribadisco, una collega questa mattina mi ha detto che c'era sua mamma che stamattina sarebbe andata in un CAF appunto a fare questa pratica, le ho spiegato guarda che è tempo fino alla fine di ottobre, ha chiamato sua mamma ha detto non ci penso per niente, ci vado stamattina, non ci voglio pensare più. Salvatore Ponticelli, INPS, allora vogliamo così puntualizzare e commentare anche alcuni dei ragionamenti fatti da Paolo Conti, che sono del tutto appunto legittimi. Voi, ecco, quello che avete potuto fare intanto è prorogare la scadenza alla fine di ottobre, però non è poi così semplice appunto, perché ogni pensionato in realtà ha una situazione a sé, e anche il pensionato che ritiene di avere la situazione più cristallina e più trasparente, in realtà forse un ragionamento magari con un centro di assistenza fiscale o con un vostro sportello è bene che lo faccia, perché magari può saltare fuori invece quella comunicazione da fare che si immaginava di non dover fare, no? Ponticelli. Guardi, Io vorrei innanzitutto precisare che nella lettera che è stata inviata ai pensionati e anche in tutte le comunicazioni che sono state fatte è stato ben chiarito quali sono i casi in cui un soggetto deve presentare il modello RED, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione al fisco. In sostanza, proprio perché siamo in una trasmissione di servizio, forse è opportuno precisare queste cose in maniera chiara. In linea generale, se un soggetto e coloro i quali appartengono al suo nucleo dichiarano integralmente i propri redditi al fisco, non devono fare il modello RED. Peraltro, ci sono dei casi in cui i soggetti, i pensionati, sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi, perché magari hanno dei redditi che sono sotto le soglie di esenzione. In questo caso deve essere presentato il modello reddituale, perché noi non potremmo avere dall'Agenzia delle Entrate le informazioni, no? Necessarie per i nostri fini. Allo stesso modo può darsi che un soggetto effettivamente faccia la dichiarazione dei redditi al fisco, però sia anche titolare di alcuni redditi che non devono essere dichiarati al fisco. Mi pare che prima sono stati citati gli interessi su un conto corrente, e così via dicendo. Chiaramente in questo caso, dal momento che l'Agenzia delle Entrate non potrebbe darci questa informazione, è necessario che il pensionato faccia il modello RED. Ci sono dei casi in cui le informazioni che può fornire il fisco non sono funzionali alle nostre esigenze, perché non dimentichiamo che il modello 730 e il modello unico sono fatti per certe finalità, laddove invece le finalità che noi perseguiamo con la verifica reddituale sono diverse, insomma, per cui ci sono alcuni redditi, pur in possesso dell'Agenzia delle Entrate, che non possono esserci forniti nel modo che serve, nel modo utile per i nostri fini, ed è per questo che i soggetti che sono titolari di redditi da lavoro autonomo o di reddito agrario devono ugualmente fare la dichiarazione reddituale all'INPS, così come si deve dichiarare espressamente. Questa è un'altra cosa che spesso crea dei dubbi nei nostri interlocutori. Il pensionato che non ha altri redditi oltre la pensione ce lo deve dichiarare. È vero, infatti volevo arrivare proprio anche a questo punto. Il modello reddituale prevede proprio la possibilità di barrare una casellina in cui il soggetto dice non possiedo altri redditi oltre la pensione. Perché è necessario questo? Perché istintivamente viene da pensare chi non ha altri redditi oltre alla pensione non fa il modello RED. In realtà alla fine dell'operazione di verifica reddituale ad ottobre oppure più avanti quando sarà, noi dobbiamo sapere chi ci ha risposto e chi invece è stato inadempiente, perché chi è stato inadempiente deve essere sollecitato a rispettare. Sì, ma non è che voglio dire adesso, a parte arriva una sollecitazione, Ponticelli, non è che davvero prendete e provvedete a tagliare da un mese all'altro l'assegno pensionistico, non siete così dirompenti, no? Voglio avere una rassicurazione da questo punto di vista. Guardi, di sollecito scritto, una raccomandata, un avviso, ma non un taglio della pensione. Guardi, io credo di poter dire che l'istituto è stato l'istituzione che maggiormente ha sempre tutelato gli interessi dei pensionati nel corso della sua storia. L'istituto ha sempre concesso dei termini molto ampi per gli adempimenti burocratici e ha sempre sfruttato al massimo i limiti che la legge gli consente per consentire ai pensionati di adempiere ai propri obblighi senza particolari patemi d'animo. In sostanza, noi oggi ci troviamo di fronte ad un'operazione che deve essere conclusa entro il 31 ottobre, quindi un termine piuttosto ampio. I pensionati possono stare tranquilli e presentarsi anche più avanti, insomma, per presentare la loro dichiarazione reddituale. Allora, sì. Anche quando scadrà il termine del 31 ottobre, a nessuno verrà bloccato immediatamente. Ecco, infatti, speriamo questo. Eccoci ritrovati in diretta allora con la denuncia dei redditi aggiuntivi alla pensione, la presentazione all'INPS del modello RED. Avete tempo, lo diciamo ai pensionati, fino a fine ottobre, quindi non è più valida la scadenza fine luglio, però insomma, per essere a posto anche con la comunicazione, per farla correttamente, naturalmente stamattina abbiamo molte indicazioni dai rappresentanti dei centri di assistenza fiscale, però sentiamo qualche ascoltatore, ne ho tanti in attesa, se ci riesco li sentiamo tutti e tre, cominciando con Luca dalla provincia di Venezia, velocissimo, grazie Luca. Allora sarò veloce. Grazie. Mia nonna praticamente che è titolare di una pensione in superstiti e di una prestazione a favore di invalido civile. Uh-huh. Ecco, è da 2-3 anni che non riceve il modello RED e anche quest'anno, contrariamente a mia madre che è un assegno, è titolare di un assegno sociale, che l'ha ricevuto e ha già provveduto a inviare i dati via internet tramite il sito dell'INPS, a mia nonna non arriva questo RED, quindi io ho provato a richiamare l'INPS e mi è stato detto che se non arriva nulla di star tranquillo che non serve, però visto che c'è lì il vostro esperto volevo una conferma ulteriore anche. Grazie Luca, sentiamo, vado da Dino Giornetti, allora se non arriva è meglio non evocarla, non cercarla a forza questa richiesta dell'INPS. No, Giornetti, assolutamente, confermo l'indicazione che ha avuto di che può stare tranquillo perché il modello se di interesse arriva sempre, se non dovesse arrivare il modello ordinario comunque come diceva il dottor Ponticelli verrà inviato un sollecito. Vabbè. Se volesse l'ascoltatore Luca di Venezia fare una verifica puntuale proprio per togliersi ogni dubbio può rivolgersi a un CAF e verificare se per quel soggetto la matricola famosa, la stringa necessaria per acquisire un modello RED e di invalidi civili è stata emessa. Senta, in ogni caso non mi preoccuperei. Anche se l'ha tirata fuori Paolo Conti questa faccenda, ma me la spiega un po' meglio lei, Giornetti, appunto, che cos'è esattamente la famosa stringa della quale stiamo parlando questa mattina? Sì, perché qua non finisco lettera, veramente mai di imparare. No, ma mi collego anche all'informativa della prima telefonata, cioè il pensionato che non ha certezza dell'informazione. La lettera è abbastanza complessa proprio perché la norma porta una complessità, quindi non è corretto dire in automatico che se uno fa la dichiarazione dei redditi non deve presentare il RED. È per questo che si può creare confusione su quale tipologie reddituali sono inserite nella dichiarazione dei redditi e quali redditi ha prodotto il cittadino. Ulteriore complicazione è il fatto che molto spesso per la prestazione collegata al beneficiario sono necessari i redditi anche di altre persone, come per esempio la moglie ed eventualmente altri familiari, e questo è inserito nella lettera. La matricola non è altro che un codice alfanumerico necessario per gli intermediari, quindi per i CAF, per poter acquisire correttamente la prestazione del cittadino, quindi le informazioni necessarie collegate alla corretta elaborazione della prestazione. In ogni caso i CAF sono attrezzati per poter recuperare tali informazioni e acquisire il modello correttamente. Andiamo ad Andrea dalla provincia di Milano. Andrea, buongiorno. Andrea? Buongiorno Deborah. Eccoci, buongiorno qua, ci dica. Volevo cortesemente un chiarimento. Beh, innanzitutto in effetti la lettera è abbastanza complicata e non ci sono molte informazioni. Se potevate rispondermi su questo, il caso credo tipico della maggior parte dei pensionati, pensione di reversibilità intorno ai 700 euro, un conto corrente che dà che non dà interessi, che per praticamente dà interessi per fare zero. Le operazioni di vita quotidiana, insomma, esatto, ecco. Quindi cioè, esiste il conto corrente ma dà interessi zero e al quale però sono collegati magari qualche risparmio investito in fondi che però so che sono tassati alla fonte, per cui non è esatto necessario. Infatti il punto è anche questo, perché devo comunicarli se già hanno comunque una loro tassazione applicata diretta. Sì, Andrea, quindi lei dice insomma, io devo farla questa comunicazione e dire per esempio che mia mamma non ha un reddito aggiuntivo a parte quello che è il frutto di questo piccolo risparmio. Esatto, ritorno visto che i conti correnti gli interessi sono pari a zero comunque perché il conto è fatto così. Grazie Andrea. Giornetti, ritorno da lei. Questo caso è il caso tipico, ovvero il dichiarante non ha redditi, come diceva precedentemente l'INPS. Però la comunicazione deve farla, deve dire esatto, sì. Non ho un reddito aggiuntivo. Assolutamente sì, non ho redditi aggiuntivi, verrà un RED dichiarato con tutte le voci reddituali necessarie per la prestazione a zero e il cittadino continuerà a beneficiare della prestazione precedente. Quindi, chiaramente, Andrea, avendo l'obbligo di dichiarare i redditi, la mancanza della comunicazione anche a zero porta all'incertezza del reddito prodotto. quindi è necessario sempre comunicare i redditi o l'assenza di redditi. Ma secondo lei Andrea deve mettere in questa comunicazione, no, non mi risulta che debba mettere anche questa piccola quota di risparmio? No, no, in questo caso tra l'altro parliamo solo degli interessi che incidono una prestazione su somme abbastanza elevate, quindi lui avrà un modello riportando lo zero nelle voci indicate. Poi ogni singolo voce reddituale gli verrà elencata, quindi verrà verificata in assistenza. L'ultima telefonata di oggi la assegniamo ad Alberto da Parma, poi concludiamo con i nostri ospiti. Alberto, buongiorno, un po' come dire una conclusione che denuncia una situazione che per la verità abbiamo già denunciato anche noi quando è stato il momento di farlo. Alberto, buongiorno, ci dica. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Sì, in effetti ne avete già parlato. Io non so se ci si rende conto della distanza media che c'è tra un pensionato del giorno d'oggi e una registrazione online, ma anche dei suoi figli, perché io ho 50 anni, ma non so se tutti siano riusciti a farla come io ci lavoro con queste cose, quindi per me non è stato un problema. E poi il dottor Conte ha citato diverse difficoltà che possono avere queste persone nello spostarsi, non ha detto l'ansia che creano queste cose, che non è un fattore secondario a mio avviso, cioè il fatto di non mandare più il CUD e obbligare queste persone a rivolgersi a un CAF dove purtroppo, devo dire, non sempre trovano delle persone aggiornatissime o a 360 gradi, e obbligarli a fare una registrazione online, ma Alberto, io la capisco, sì, ti tocca ritornare indietro. L'informatizzazione è il grande risparmio che si porta. Mi rendo conto che stiamo, come dire, vivendo anche una rivoluzione radicale di fronte alla quale effettivamente il mondo dei pensionati non è preparato. Ci arriveremo con calma, Alberto, che cosa le posso dire? E comunque ci sono i servizi, c'è l'INPS, c'è l'ufficio dell'INPS, c'è l'ufficio dei centri di assistenza fiscale. Non è un obbligo collegarsi appunto al sito internet per scaricare la certificazione appunto dei redditi. Da lì è un'opportunità, e chiaramente se qualche pensionato ha magari un ragazzo accanto, un figlio, un nipote appunto capace di farlo, chiaramente ci si rivolge in primo luogo in famiglia e poi si va ai centri appunto deputati a farlo. Però mi rendo conto appunto del tema ansia che ha sollevato e che effettivamente abbiamo denunciato anche più volte da qua. Allora dobbiamo andare verso la chiusura della trasmissione, abbiamo ancora un paio di minuti, ancora un'altra magari domanda da parte di un ascoltatore, così rispondiamo anche ai casi concreti. Claudio ci scrive: mia mamma è titolare esclusivamente di una pensione di reversibilità ed è proprietaria di una parte della casa in cui vive, l'altra quota dei figli. Ha ricevuto la richiesta a giugno, il modello RED appunto. La mamma non fa unico e 730, ho effettuato la procedura online essendo in possesso del PIN, il famoso PIN dispositivo, quanto rilasciato come certificazione da parte dell'INPS, dice il nostro ascoltatore, è piuttosto scarno. Io spero di aver eseguito tutto correttamente, ma il dubbio è sempre lo stesso. Chi non ha la possibilità di accedere ai servizi online o ha problemi e non li elenco a recarsi ai CAF, che cosa fa? Rischia di perdere la pensione. Concludiamo con Ponticelli, non siamo a questi livelli, però ecco, è bene fare appunto la compilazione nella maniera più corretta possibile. Beh, certo, è chiaro che i dati esposti devono essere rispecchiare integralmente quella che è la situazione economica. Ponticelli, mi scusi se la interrompo perché voglio sentire prima di concludere rapidamente Francesca da Padova. Le è stata tolta la pensione perché non ha presentato il RED. Francesca. Effettivamente, non so quante persone lo scorso anno non hanno ricevuto la pensione il primo di gennaio del 2014. Come? Perché il 27 di dicembre, quindi periodo festivo, è arrivato mio padre la raccomandata che non aveva presentato il RED del 2008. Non le dico, siamo andati all'INPS e ci hanno detto andate a un CAF. Il CAF era chiuso perché era festa. Francesca, purtroppo è arrivata proprio nell'ultima parte della trasmissione. Ha risolto la sua situazione o no? L'ha recuperato poi con l'assegno? Pensione a gennaio. Ma per un mese è rimasto senza pensione, poi ha chiarito la situazione? Sì, ma tanti anziani del mio paese sono rimasti senza pensione per 2-3 mesi. Ah, ecco, ma questo modulo era stato presentato a suo tempo nel 2008, era stato un disguido di altro tipo, che cosa era successo? Non si capiva se si doveva presentare o no. Quindi loro fanno rimanere senza pensione da un giorno all'altro. Ok, Ponticelli, ha sentito che capita? per concludere non con... ho sentito bene l'anno a cui si riferiva al 2008, comunque in realtà 2008. Ecco, insomma, in ogni caso se devo dire che se non era stato presentato il modello RED del 2008, ci rendiamo conto che siamo nel 2013, in questi anni l'istituto ha inviato almeno 3 solleciti. E quindi insomma lei dice, Francesca, in qualche maniera dopo la richiesta iniziale. Va bene, magari guardi, cercheremo di ricostruire meglio la questione di Francesca. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Il caso più interessante, come al solito, arriva sempre all'ultimo istante. Grazie a tutti, ci sentiamo domani, buona giornata.